Letture di Radio 24. Einstein aveva 26 anni quando pubblicò il suo primo studio sulla relatività. Oggi, a metterla in dubbio, arriva addirittura un dodicenne. Il nome del bambino prodigio è Jake, originario dell'Indiana, a cui è già stato offerto un posto di ricercatore a tempo pieno. La teoria della relatività di Albert Einstein è molto debole, forse del tutto errata. E anche lui stesso era arrivato a un passo da tale scoperta. A sostenere la rivoluzionaria tesi è Jake, un bambino di 12 anni dell'Indiana, la cui mente straordinaria sta attirando l'attenzione dello stesso istituto di Princeton, dove proprio Einstein sviluppò la sua teoria. Jake è il soprannome di Jacob Barnett, arrivato a poche settimane dal 13° compleanno nella piccola località di Hamilton County, in Indiana, con l'offerta della Purdue University di Indianapolis di un posto come ricercatore a tempo pieno, per avere modo di approfondire la sua teoria. Il piccolo Barnett, a 2 anni di età, faceva penare i genitori perché non parlava con nessuno e non guardava in faccia neanche loro. Lo portarono da medici e psicologi, arrivando alla conclusione che era affetto da una leggera forma di autismo. Ma superato il 3° compleanno, si accorsero anche che riusciva con estrema rapidità a risolvere puzzle di 5.000 pezzi. E le sorprese da quel momento non sono mai finite, a causa di una mente da prodigio che lo ha obbligato a 8 anni ad abbandonare la scuola, perché si annoiava ad ascoltare maestri e professori che spiegavano cose che lui già sapeva o indovinava in grande fretta. Anziché passare il tempo in classe, Jake ha così appreso da solo calcolo, algebra e geometria in appena 2 settimane, gettandosi con passione nell'approfondimento della matematica fino a calcolare 200 cifre del pi greco. Da quando ha lasciato il liceo ha iniziato a seguire corsi di astrofisica avanzata di livello universitario, tornando a casa ogni giorno con una valanga di nozioni matematiche che hanno sempre più messo sulla difensiva i genitori, fino alla scelta compiuta dalla madre, Christine, di riprendere con un video il figlio mentre pronunciava frasi per lei incomprensibili, oppure scriveva sulle finestre di casa interminabili formule matematiche. Il video di 1 minuto e 47 secondi è finito su YouTube e mostra Jake con felpa rossa e cappellino da baseball mentre, seduto in cucina, spiega perché la teoria di Einstein non lo convince affatto. Finita l'illustrazione, il bambino si mette a mangiare un sandwich mentre la mamma si rivolge a chi ascolta, chiedendo aiuto a gestire questa situazione. È stato così che le informazioni su Jake sono arrivate a Scott Tremaine, uno dei docenti di punta dell'Institute of Advanced Study dell'Università di Princeton, in New Jersey, dove studiarono e insegnarono Albert Einstein, Robert Oppenheimer e Kurt Gödel. Sono molto impressionato dall'interesse per la fisica di vostro figlio e dall'ammontare delle conoscenze che fino a questo momento ha assimilato, ha scritto Tremaine per email alla famiglia Barnett, spiegando che la teoria sulla quale Jake sta lavorando coinvolge alcuni dei problemi più difficili dell'astrofisica e della fisica teorica, fino al punto da affermare che chiunque riuscisse a risolverli sarebbe un naturale candidato a vincere il premio Nobel. È stata questa autorevole opinione scientifica a trasformare Jake in un caso nazionale, attirando su Hamilton County l'attenzione dei grandi media per un bambino il cui quoziente di intelligenza è 170, ovvero 10 punti più di quello che aveva Einstein. Come sia stato possibile che la sindrome di Asperger, che gli fu diagnosticata a 2 anni, abbia potuto innescare una simile propensione alla conoscenza delle più intricate questioni di astrofisica, è un mistero che avvince medici e ricercatori, adesso impegnati a fare a gara nell'esplorare la mente del bambino prodigio. Da qui la scoperta che eccelle non solo nella matematica, ma anche nella musica, riuscendo a suonare a memoria musica classica al pianoforte, mentre per altri versi è un bambino come tanti altri, a cui piace vedere in TV i programmi di Disney Channel e i film di fantascienza. Quando Einstein pubblicò il primo studio sulla teoria della relatività, aveva 26 anni e Jake sente di avere tempo a sufficienza per riuscire a smantellarla. Ci sto ancora lavorando sopra. Ho un'idea per dimostrarne l'infondatezza, ma devo ancora definire i dettagli del percorso da seguire. Parola di genio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Jake, il dodicenne che riscrive la relatività, di Maurizio Molinari, dalla Stampa di mercoledì 30 marzo 2011. Tra le tante motivazioni che possono portare alla fine di un matrimonio, sembra esserci anche la presenza di un amico a quattro zampe in casa. Solo nel 2010, gli animali sono stati infatti protagonisti di oltre 50.000 contese giudiziarie. Se dobbiamo parlare di quegli animali dei coniugi in guerra, non ci riferiamo ora alle persone rabbiose e vendicative, ma proprio ai cani, ai gatti e persino ai serpenti, che possono costituire l'insolito oggetto del contendere, o persino la causa determinante la separazione. Nel 2010 sono stati infatti gli animali a essere protagonisti di oltre 50.000 contese giudiziarie. Non solo perché micce di bombe a orologeria condominiali, in quanto portatori di rumore, disordine, sporcizia e danneggiamenti, per evidente incuria dei loro padroni, ma anche perché trofei da conquistare da parte di entrambi i coniugi in via di separazione o dichiarato motivo di paralisi del desiderio sessuale. L'ultima storia ha come scenario Trento. Due coniugi si azzuffano perché lei pone in cima alla scala gerarchica delle sue priorità il cane. In funzione dell'amico a quattro zampe della donna, viene modulata infatti la vita coniugale, sociale e affettiva della coppia. La scelta delle ferie, del ristorante, del cinema o della cena tra amici impone che vi sia una chance perché anche lui vi possa partecipare. Probabilmente anche i momenti dedicati al sesso sono più o meno ritmati sui bisogni del cane. Il marito, offeso dalla quotidiana postergazione della propria dignità e delle aspirazioni connesse al progetto di coppia, lascia la cuccia coniugale e chiede la separazione con addebito alla moglie della responsabilità della frattura matrimoniale. Poco tempo prima, un altro marito aveva chiesto all'AIDA, Associazione Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, di sfrattare d'urgenza dal letto coniugale il gatto, imposto dalla moglie, poiché freno inibitore di qualsiasi attività sessuale. La moglie, più giovane di 20 anni, si era difesa sostenendo che la presenza del gatto, cosiddetto voyeur, non fosse altro che un alibi del marito ormai inabile di per sé. Ricordo che oltre 20 anni fa, quando l'affido condiviso era di là da venire, suggerì a una coppia che si stava separando di dirimere il contenzioso accesissimo sulla proprietà del cane e del gatto, tenendoli in affido congiunto e alternato, uno alla volta ciascuno. L'idea piacque e per circa un anno i coniugi si incontravano per lo scambio degli animali ogni 15 giorni, finché entrambi furono costretti a recarsi dal veterinario perché gli animali presentavano disturbi all'umore e una sorta di disarmonia affettiva. Il veterinario, a differenza di ciò che pensano molti genitori sconsiderati e molti giudici sulla serenità psicologica dei bambini, ritenne che fosse necessario garantire alle bestiole un periodo di stabilità nello stesso territorio affinché riacquistassero l'equilibrio emotivo e la ridefinizione dei loro confini ambientali. Fu così che la coppia, ormai separata, decise di riunirsi per l'estate nella comune casa di campagna non ancora venduta, immolandosi sull'altare del sacrificio per amore del cane e del gatto. E fu così che non si lasciarono mai più, perché da quell'estate terapeutica spuntò una gravidanza, attesa disperatamente nei frustranti 10 anni prima dell'estemporanea separazione. Secondo Danilo Mainardi, le mamme dovrebbero imparare dalle femmine degli animali ad allevare i bambini. Forse così potrebbero educarli meglio all'autonomia e non strumentalizzarli mai. Freud addirittura pensava che le persone siano incapaci di amare e confondano l'amore con l'odio, mentre i cani sanno amare gli amici e mordere chi è loro ostile. Si incontrano persone così innamorate della loro bestiola che, per esempio, non fumano in loro presenza se sanno che procura starnuti a ripetizione. Rinunciano a prendere l'aereo per non costringerla alla tortura della stiva. Vivono il lutto della sua morte fino al punto di dimagrire e andare in depressione. Certo, considerando le storie coniugali che si frantumano a causa della presenza ossessiva di un cane e di un gatto, verrebbe voglia di approfondire meglio le consistenze sentimentali in discussione. Dati per scontati l'affetto per gli animali, gli scodinzolamenti, le fusa e gli sguardi dolci, c'è da chiedersi se dal coniuge si pretende altrettanto, e non c'è, oppure se a parità di fusa e di affettuosi lambire, le moine coniugali non vincano il confronto e appaiano deludenti. E dunque, prima di accusare le bestie, sarebbe bene un esame di coscienza da parte degli uomini e delle donne che si lamentano della presenza opprimente e tormentosa di un cane e di un gatto sul talamo coniugale. Ha in sé qualcosa di affascinante e misterioso lo studio delle relazioni tra uomini, donne e animali, forse perché gli animali si astengono da ogni commento e noi possiamo interpretare la dinamica delle relazioni secondo il nostro carattere e i nostri valori. Mi piacerebbe sapere, per esempio, cosa pensano le rane delle donne che tradiscono se stesse mascherandosi con Botox e silicone. Le rane sono l'etica dell'antiestetica, giacché grasse, brutte, rugose, sgraziate come sono, cantano rauche e felici tutto il giorno e riescono a trovare marito senza drammi, ripopolando sistematicamente gli stagni. Le donne, invece, anche quelle che diventano avatar di se stesse pur di trovare un uomo, trascurano poi il marito per dedicarsi a un cane. Sarà forse vero, allora, che più si conoscono gli uomini, più si apprezzano i cani? Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Per lei Fido conta più di me» ed è boom di divorzi da cani, dal giornale di giovedì 31 marzo.